without power. That sounds worth listening. Digitate il vostro codice PIN, per favore. E mettete il numero dell'utente desiderato. Ah, c'è un piccolo problema. Qual è il previsto internazionale per il Canada? Pod Power. That sounds worth listening. Pod Power è una guida settimanale su come usare internet per ascoltare qualcosa di più interessante di quello che propongono i media. Non devo dire i media, devo dire i media. Ogni idea passa al vaglio di almeno 3 persone per essere sicuri di non scontentare qualcuno. Il vantaggio è che in questo modo puoi avere la ragione. Una cosa che... Una cosa che accadeva spesso nella seconda metà degli anni 90 è... Non sono in vero. Vous êtes déjà sorti du grand hiver, froid? Vous savez quoi, il neige ce matin. Alors, c'était pas la bonne question.